Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Emergenza Covid, il ministro Speranza, una seconda ondata è possibile, dobbiamo tenerci pronti, ma per Locatelli sarà meno forte della prima. Crolla la produzione industriale ad aprile, secondo l'Istat, meno 19% a marzo, il calo era stato del 28%. Naufragio al largo della Tunisia, il barcone era diretto in Italia, ci sarebbero 34 vittime. Università in 15 anni perse 37.000 matricole, secondo il rapporto Alma Laurea, dal 2015 è iniziata una lenta ripresa. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Cominciamo con la nuova informativa del ministro della Salute Roberto Speranza sull'andamento del contagio da coronavirus in Italia. Una seconda ondata, ha detto Speranza, è ancora possibile. Per questo dobbiamo tenerci pronti. E poi c'è stato spazio anche per le parole del presidente del Consiglio Superiore di Sanità Locatelli, che è tornato anche sulla questione delle zone rosse. Sentiamo. I dati sulla curva dei contagi in Italia sono incoraggianti, ma l'epidemia non è finita. Ci sono ancora focolai e il virus, anche se in forma ridotta e con prevalenza di casi asintomatici, continua a circolare. Lo ha detto alla Camera il ministro della Salute Roberto Speranza. Per questo, spiega Speranza, non bisogna abbassare la guardia. Bisogna continuare con insistenza e rafforzarle le attività di screening e contact tracing. Occorre tenere alto il numero dei tamponi effettuati, soprattutto per ricercare possibili focolai laddove il Covid ci ha fatto più male. E in merito all'inchiesta della Procura di Bergamo sulla mancata zona rossa in Valseriana, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, chiarisce: noi abbiamo sollevato l'attenzione sulle aree dove c'erano il numero maggiore di casi e sono state fatte, con una tempistica stringente, tutte le analisi che hanno permesso al decisore politico di fare le scelte del caso. Ma nel rimpallo di responsabilità tra governo e regione Lombardia, il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ricorda: la zona rossa a Medicina l'abbiamo fatta di notte, decisione politica difficile, e poi abbiamo informato il governo che ci ha consentito di poterla fare. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sulla mancata creazione delle zone rosse ad Alzano e Nambro, uno dei capitoli dell'inchiesta di Bergamo, saranno sentiti forse già domani lo stesso ministro Speranza e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Oggi sarà la volta della titolare dell'interno Lamorgese. Ieri è stato ascoltato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro e nei giorni scorsi lo furono il presidente della Lombardia Fontana e l'assessore alla sanità Gallera. Ma come sentivamo oggi, il presidente dell'Emilia-Romagna Bonaccini è intervenuto sulla questione chiarendo che nella sua regione è stata creata la zona rossa in una notte, avvertendo successivamente il governo. Dichiarazione che è arrivata durante un seminario organizzato dal Sole 24 Ore, in cui era presente anche il commissario europeo Paolo Gentiloni, che ha parlato del Recovery Fund. Misure europee senza precedenti per sostenere l'economia dei paesi membri in questo periodo di emergenza sanitaria per investimenti nella sanità. Le sottolinea il commissario all'economia Paolo Gentiloni nel webinar Fuori dall'emergenza sanitaria, una nuova Europa, organizzato nell'ambito della fiera internazionale Air to Be on Air. Come la sospensione del patto di stabilità, la sospensione delle regole sugli aiuti di Stato, gli interventi in due fasi della BCE, il pacchetto di prestiti 500 miliardi circa, che hanno anche stabilizzato i mercati finanziari e consentito ai paesi di muoversi e spendere. Che ci sia una discussione sul Recovery Fund mi pare inevitabile, puntualizza Gentiloni. Ci sono due punti importanti però, e l'obiettivo è giovare a tutti i paesi membri. Nessuno ha sbattuto la porta di fronte a questa proposta. Quindi si discute nel merito, non si discute con atteggiamenti di totale chiusura. Questa proposta deve essere alla fine condivisa nella sua sostanza. E in merito all'utilizzo del MES, al webinar il governatore emiliano Stefano Bonaccini: a me di MES non me ne può fregare di meno. Mi interessa che, se c'è un fondo senza condizionalità così rilevante, ci permetterebbe investimenti straordinari e importantissimi. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito dei fondi che arriveranno dall'Europa e di come investirli in Italia, gli stati generali dell'economia voluti dal governo, che dovrebbero iniziare tra venerdì e sabato, dovranno fare a meno fino a questo momento, almeno a quello che si è saputo, del contributo delle opposizioni che ieri hanno declinato l'invito. Non è una sede istituzionale, sostengono Meloni, Salvini e Tajani. Sentiamo Daniele Biacchessi. Il Premier Conte va all'appuntamento degli Stati Generali dell'Economia dopo il Covid, previsto sabato a Villa Pamphili, senza la presenza dell'opposizione, con una maggioranza unita solo nell'apparenza. L'assenza dell'opposizione, che ritiene Villa Pamphili un luogo informale, dunque non istituzionale, rende il Premier Conte oggettivamente più debole e il lavoro degli Stati Generali già zoppo in partenza. Qui sta il punto politico. La maggioranza resta nei fatti divisa sulle scelte di rilancio del paese. Alcuni esempi: Partito Democratico e 5 Stelle puntano ad un nuovo decreto in deficit entro gli inizi di luglio da almeno 10 miliardi per dare sostegno a settori come scuola, comuni, PMI. Italia Viva chiede una programmazione dell'ulteriore deficit per non andare avanti di scostamento in scostamento da qui a fine anno. Liberi Uguali sostiene un cambio di passo delle politiche del governo, riconversione ecologica della società, welfare universale a partire dalla sanità pubblica e dalla scuola, giustizia sociale e lotta alle disuguaglianze. Alla fine qualcosa accadrà e Conte dovrà mettere in piedi una sintesi, ma in mancanza di indicazioni pragmatiche possibilmente condivise, gli Stati Generali rischiano di restare buoni propositi scritti solo sui documenti, e questo il Paese non se lo può permettere. E siamo alla pagina economica. Il pagamento della cassa integrazione è entrato a regime ed è già stata erogata a più di 7 milioni di lavoratori. Così oggi la ministra del lavoro Nunzia Catalfo ha voluto rassicurare in un intervento radiofonico. Mentre in audizione parlamentare arrivano i dati sui prestiti erogati alle aziende da parte delle banche, sono raddoppiati, dice Banca Italia. Sentiamo. I tempi di erogazione dei crediti, soprattutto sotto i 25.000 euro, da metà maggio sono migliorati, ma esistono eterogeneità tra le banche. Per questo Banca Italia ha inviato una lettera ad alcuni istituti, spiega il responsabile della vigilanza Paolo Angelini in audizione alla commissione d'inchiesta. Chiediamo agli intermediari di attivarsi rapidamente per rimuovere eventuali cause di ritardo che siano imputabili a loro specifiche carenze. L'ampliamento del ricorso all'autocertificazione, contenuto nell'emendamento al decreto liquidità, dovrebbe contribuire a snellire il processo, sottolinea Angelini, ricordando che anche le banche saranno colpite dalla crisi. Alcune simulazioni non sono rassicuranti. È evidente che una perdita di PIL, sia essa del 9%, sia essa più elevata, non potrà non incidere sulle imprese e a catena sulle banche. Sul fronte moratorie, nel complesso hanno funzionato in modo rapido ed efficiente, precisa Via Nazionale. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ancora dati sul calo dell'economia, sul crollo dell'economia durante il lockdown. Questa volta parliamo della produzione industriale durante il lockdown, scesa del 19% ad aprile, secondo l'Istat su base annua. Anche considerando la ripartenza, il calo alla fine sarà del 40%. Un vero e proprio tsunami, quello del virus e del conseguente lockdown sulla produzione industriale, meno 42,5% annuo ad aprile, un nuovo record della serie storica disponibile che parte dal 1990, superando i valori registrati nel corso della crisi del 2008-2009. Mese su mese, segnala invece l'Istat, l'indice recupera lievemente rispetto al valore minimo registrato a marzo, meno 29,4%, costituendo tuttavia con un meno 19,1% il secondo peggior risultato della serie storica. Tracollo in particolare ad aprile per l'industria degli autoveicoli, con un secco meno 100%. Tonfi senza precedenti per il settore tessile e i trasporti, con riduzioni della produzione rispettivamente pari all'80,5% e al 74%. Nel quarto mese dell'anno si salva solo la farmaceutica, mentre l'alimentare resta fermo. Effetto lockdown anche sulle esportazioni, con zone che segnano risultati negativi superiori alla media nazionale. Il nord-est perde il 6,8% e da solo, spiega l'Istat, vale la metà della contrazione dell'export nazionale. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la cronaca. Naufragio al largo della Tunisia. Un barcone era diretto in Italia, si è rovesciato, 34 i corpi sinora recuperati. Un'imbarcazione precaria che avrebbe potuto contenere a stento 20 persone e invece ne portava 53. In questo modo volevano attraversare il Mediterraneo e arrivare in Europa. Invece la barca è affondata davanti alle coste tunisine e ora si procede al recupero dei corpi. 34 finora quelli ritrovati senza vita. 3 sono bambini molto piccoli, hanno 2-3 anni, 22 le donne, 9 uomini, quasi tutti provenienti dall'area subsahariana. Tra le vittime anche un tunisino che sarebbe stato al timone del peschereccio affondato. La barca era partita nella notte tra il 4 e 5 giugno dalla città tunisina di Sfax. Potrebbe essere stato il mare mosso a far ribaltare l'imbarcazione. Unità della Marina Militare e della Guardia Costiera sono ancora al lavoro nel tratto di mare interessato dal naufragio alla ricerca di altri dispersi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo all'estero. La morte di George Floyd, come ricorderete, afroamericano ucciso dagli agenti di polizia durante un fermo, sta causando proteste non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo. Il filo conduttore è la critica di ogni forma di discriminazione razziale. Preoccupa una seconda ondata di contagi da Covid-19 negli USA, dove i casi hanno superato ormai la soglia di 2 milioni, in aumento in almeno 21 stati, e dove il numero delle vittime è salito a 113.000. E mentre Donald Trump annuncia la ripresa dei comizi per le presidenziali interrotti causa pandemia in 4 stati, Florida, Arizona, North Carolina e Oklahoma, non si placano, anche se si stanno attenuando, le proteste del movimento Black Lives Matter per la morte dell'afroamericano George Floyd per mano di un poliziotto bianco Minneapolis. Proteste in cui sono state distrutte o vandalizzate statue di varie personalità ritenute razziste. Anche 2 sculture raffiguranti Cristoforo Colombo, una decapitata a Boston in Massachusetts e un'altra buttata in un lago a Richmond in Virginia, perché ritenuto simbolo della colonizzazione e del genocidio dei nativi americani. Colpisce poi la notizia che la HBO abbia deciso di ritirare dal proprio servizio streaming Via col vento perché ritenuto un film pieno di pregiudizi etnici e razziali. Intanto anche negli States, dopo lo stop del 12 marzo scorso, riparte il calcio dal prossimo 8 luglio a Orlando, in Florida, e sarà concesso ai giocatori di inginocchiarsi durante l'inno nazionale, un gesto divenuto simbolo della protesta antirazzista nel mondo, vietato negli Stati Uniti dal 2017. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo di nuovo in Italia con una notizia di cronaca. Percepivano il reddito di cittadinanza ma erano boss ed elementi di spicco di un clan di stampo mafioso. Gioia Tauro, i carabinieri di Palmi e la procura hanno così scoperto e denunciato 37 persone appartenenti alla cosca Piromalli-Molè, tra loro anche soggetti già condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso di oltre 300.000 euro. Il danno erariale scoperto. In Italia si sono persi negli ultimi 17 anni ben 37.000 neo iscritti all'università. Soltanto negli ultimi 3 o 4 anni è iniziata una lenta ripresa che ha portato lo scorso anno ad un più 11% di matricole. È quanto emerge dal rapporto Alma Laurea sullo stato delle università italiane. Per il ministro Manfredi molto dipende dall'incapacità dell'Italia di offrire posti di lavoro qualificati. Sentiamo. Se noi non saremo in grado di creare condizioni di lavoro qualificate per i nostri giovani, perderemo uno straordinario capitale umano che noi formiamo bene, ma che cercherà di trovare lavoro in altri posti. Quindi noi alimentiamo la crescita di altri paesi con i nostri investimenti sia in persone che in risorse, e questo rappresenta un fattore critico per quello che è il futuro del paese. 13:14 minuti, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con Effetto Giorno e tutte le altre notizie. Ripartiremo da una proposta che ha il merito di essere tale nel dibattito su come investire i grandi fondi economici che si stanno mobilitando, fondi italiani, prestiti che dovranno essere istituiti, indebitamento dello Stato, insomma come investirli. Ecco la proposta che arriva dal fisico Guido Tonelli, lo sentiremo tra poco: creare a Milano una agenzia per la ricerca europea nel biomedicale, che potrebbe essere il volano per uno sviluppo in questo settore nel nostro paese. Poi dalle 13:30, ve lo anticipo fin da adesso, una nuova tegola cade sulla concessione delle autostrade, perché secondo le ultime indagini della Procura di Genova sarebbero stati addomesticati i rapporti sui controlli sulle gallerie liguri. A tra poco. perfetto giorno. Queste le notizie di oggi, emergenza Covid, il ministro Speranza, una seconda ondata è possibile, dobbiamo tenerci pronti, ma per Locatelli sarà meno forte della prima. Zone rosse, oggi a Bergamo sarà sentito il ministro dell'interno Lamorgese, il presidente dell'Emilia Romagna Buonaccini dice da noi è stata creata in una notte, poi avvisammo il governo. Crolla la produzione industriale ad aprile, meno 19% a marzo, il calo era stato del 28%. Proposte per investire i finanziamenti del Recovery Fund, Milano diventi sede di un'agenzia per la ricerca biomedicale avanzata in Europa. Ne parliamo tra poco con Guido Tonelli. :13:17, eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, con Effetto Giorno. E come anticipato dai titoli del nostro sommario, è con noi Guido Tonelli, professore di fisica all'Università di Pisa, scienziato del CERN. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Grazie per aver accettato il nostro invito, Tonelli. Allora, faccio una piccola premessa. Parliamo di questa difficile ripresa dell'economia che stiamo cercando, il governo, tutti stanno cercando di rimettere in pista, la fase 3, se volete, insomma, di come si stia muovendo il governo. Da questo punto di vista c'è un tema di metodo che riguarda per esempio la questione degli stati generali che si apriranno nel weekend, chi dice un teatrino politico, chi parla di scelte strategiche, chi come le opposizioni sottolineano che non è una sede istituzionale, quindi non parteciperanno, no? E c'è questo un tema che ricade tutto sul governo, la scelta di come ragionare su questo, però c'è anche un tema di contenuti che ricade su tutti, anche sull'opposizione, perché sembra che ci sia un po' una carenza di idee su quali progetti puntare, su quali idee investire ingenti risorse per fare creare questa ripresa, per fare anche un volano, insomma, della ripresa economica. Perché guardiamoci intorno, leggete i giornali, guardate sui siti web, ascoltate la televisione, non è che ci sia un gran fiorire di idee. Oggi, devo dire, dalle colonne del Corriere della Sera arriva Tonelli la sua, che è una proposta articolata in tre, diciamo, in realtà in tre proposte. La prima, la più importante, è quella di una agenzia, uno potrebbe dire una nuova agenzia, un nuovo ente, però qua parliamo di scienza e innovazione. Di che si tratta, Tonelli? Sì, diciamo, proprio nello spirito che lei citava, cioè che è il momento di far funzionare il cervello e tirar fuori idee, perché ci sarebbe anche in questa situazione difficile la possibilità di usare la necessità di ripartire per costruire qualcosa di importante. Questa è una possibilità. Ho sentito, ho raccolto, diciamo, in vari ambienti questa esigenza e mi è sembrato necessario raccontarla, spiegarla. Negli Stati Uniti, per esempio, c'è un'autorità che si chiama BARDA, Biomedical Advanced Research and Development Authority, che in realtà gestisce iniziative di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci, le coordina a livello di aziende, a livello di laboratori. In Europa questa cosa manca e quindi ci sarebbe questa esperienza della pandemia, ci potrebbe, se volessimo evitare di avere conseguenze negative in un futuro, potrebbe essere l'occasione di costruire questa agenzia europea per la ricerca biomedica avanzata. Una organizzazione che, diversamente da quella statunitense, potrebbe organizzare direttamente anche la ricerca. E per esempio, in questo momento, se l'avessimo, potrebbe essere al lavoro per lo sviluppo dei vaccini più promettenti, mettendo insieme le risorse migliori d'Europa. E io proporrei Milano come sede naturale di questa agenzia. Stiamo parlando di una struttura che potrebbe funzionare con un investimento iniziale di 5 miliardi di euro, un budget annuale di 1 miliardo e un'occupazione intorno a 2.500 scienziati e ricercatori che tutta l'Europa dovrebbe finanziare e che il nostro paese potrebbe ospitare. Milano è un centro di eccellenza per le molte università che ospita, gli ospedali fra i migliori d'Europa se non del mondo, le molte aziende biomedicali che sono in Milano, in Emilia, nel Veneto, in Piemonte, nelle aree circostanti. Quindi, diciamo, se noi avessimo un atteggiamento propositivo, sono sicuro sarebbe l'occasione giusta per riuscire a ottenere risultati. Ecco, un'agenzia per la ricerca biomedicale avanzata a Milano, lei ha chiarito chiaramente anche tutto l'indotto che si potrebbe creare, forse un punto c'è ancora da chiarire, no? Perché ci sono anche tutta una serie di studi economici su come e quanto proprio in America questo tipo di agenzie siano state in grado in passato, basti pensare allo sviluppo di internet, delle tecnologie, dei microchip legate per esempio anche allo sviluppo poi delle tecnologie sugli smartphone, eccetera, eccetera, che poi hanno avuto una diffusione su scala planetaria. Quanto queste innovazioni scientifiche poi inneschino una reale volontà di investimenti da parte delle aziende su nuove tecnologie profittevoli. Quindi sembra proprio il filo conduttore di queste sue proposte, poi ce ne sono altre due, proprio questa idea di investire cercando di creare un moltiplicatore a sua volta. Sì, si tratta di costruire, utilizzando gli strumenti giusti ed essendo rapidi negli investimenti, questa sarebbe la sfida per noi. Ma io in questi settori che conosco abbastanza bene, io sono sicuro che i tempi potrebbero essere veramente veloci, perché c'è un'organizzazione di persone che sono abituate a lavorare in ambito internazionale, che si muovono su tempi molto rapidi, no? La possibilità cioè di costruire dei poli con una massa critica di ricerca e di innovazione che potrebbero assomigliare idealmente ai grandi poli di innovazione e di ricerca. Io ho in mente Palo Alto, la Silicon Valley, oppure che ne so, Zurigo, oppure Monaco, no? Per avere un'idea, o per non dire Shenzhen o Hong Kong. Cioè poli in cui iniziative di ricerca, grandi università, grandi cerchi di innovazione o aziende innovative, diciamo, costruiscono sinergie che attraggano ulteriori idee, ulteriori investimenti e costruiscono il volano su cui riorganizzare un sistema economico che vede l'innovazione al proprio centro. Ci sono altre due proposte che lei fa, diciamo, in subordine, se ce le vuole così anche raccontare, sì, senza molto, entrare, diciamo, troppo magari nel... Per dare un'idea, diciamo, di cosa si potrebbe fare, per esempio c'è questo progetto europeo, Einstein Telescope, una nuova infrastruttura per rivelare le onde gravitazionali, che si sta discutendo se piazzarlo in Sardegna o a Maastricht, nella regione al confine fra Germania, Belgio e Olanda. Anche qui si sta parlando di un grande infrastruttura scientifica, costerà circa 1,5 miliardi di euro, sì, circa 500 persone, tecnici, ricercatori, personale qualificato, e avremo la fortuna, diciamo, questa infrastruttura va collocata in una zona sismicamente silenziosa, no? Perché deve essere un oggetto di 10 km di lato, un triangolo equilatero, tunnel scavato 100-200 metri sottoterra, nella zona sismicamente più tranquilla. E noi abbiamo la Sardegna, che è la zona, diciamo, più quieta d'Europa, se che non potrebbe del mondo, essere, no? Ideale. Ed è il posto ideale, sono già stati fatti molti studi. E chiaramente c'è la spinta politica di tedeschi, belgi e olandesi a favorire il sito a loro vicino. E quale occasione migliore? Alcuni di questi paesi, per esempio l'Olanda, sono i paesi cosiddetti parchi, no? Che dicono l'Italia non deve avere sì, i paesi frugali. No? E allora potremmo prenderli in parola, dice, se diciamo, guardate, questi non sono fondi regalati, questi sono un'infrastruttura europea, certo, che servirà. Senta, a tutti, Tonelli, e che noi possiamo organizzare. In vista di questi benedetti stati generali che si dovrebbero tenere a partire da sabato, per alcuni, ripeto, una passerella a favore di telecamere, per altri il governo, il Presidente del Consiglio Conte, un'occasione per raccogliere le idee migliori. Non le chiedo se l'hanno invitata. No, sinceramente no. Ma le chiedo se c'è speranza, secondo lei, no, infatti questo no, se c'è speranza, secondo lei, che in una situazione del genere, in un consesso del genere, si arrivi a un livello di dettaglio, non dico alla virgola del progetto, però come è sceso lei adesso in 5 minuti in un'intervista radiofonica, ci ha esemplificato un progetto concreto che può essere arriviamo da A a B per investire tot fondi e fare questa cosa qua, anziché dire ci vuole il digitale, ci vuole la rivoluzione verde. Cioè, lei pensa che in quelle occasioni si riesca a parlare anche dei progetti o sono occasioni perse? Diciamo, mi piacerebbe, io sono un sognatore per professione, mi piacerebbe immaginare che la situazione che viviamo è talmente seria, per non dire drammatica, che diciamo parlare al vento, cioè di usare formulazioni generiche che lasciano il tempo che trovano, sia lasciato da parte. Che sia quella un'occasione importante per chiunque parteciperà, e mi auguro che ci sia una partecipazione la più ampia possibile, qui veramente la politica dovremmo lasciarla un attimo da parte, per proporre idee e magari attaccare a queste idee un prezzo e un impatto, no? Non c'è bisogno di fare libri di 200 pagine per spiegare quanto costa un progetto e che impatto potrebbe avere, no? E penso che se si adottasse questo atteggiamento pragmatico e operativo, sarebbe già un enorme passo avanti. Lo penso anch'io, credo che lo pensino in tanto. Grazie Guido Tonelli, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Speriamo che questa proposta invece faccia qualche passo in avanti, perché credo che possa avere le carte in regola per avanzare. Un'agenzia per la ricerca biomedicale avanzata a Milano, staremo a vedere. Intanto, a proposito del contesto europeo di cui parlavamo, per questo ci sono le proposte della Commissione europea per quanto riguarda l'apertura delle frontiere esterne dell'Europa nei prossimi giorni, un tema molto importante per il nostro paese, anche in chiave di rilancio del turismo, in chiave estiva. Laura Bettini. Chi potrà varcare i confini dell'area Schengen e da quando? È presto per dirlo. La Commissione europea sta lavorando a un approccio comune, coordinato per lo sblocco delle frontiere dell'area, di cui fanno parte 26 paesi europei e 4 associati. Le revoche, suggerisce Bruxelles, siano parziali e graduali a seconda dell'andamento epidemiologico, delle condizioni del sistema sanitario e delle misure di prevenzione messe in atto dai paesi cui si intende riaprire. Sebbene sia chiaro che il coordinamento conviene in termini di contenimento e controllo del rischio, le esigenze degli Stati membri sono però assai diverse e le decisioni alla fine saranno individuali. La Grecia, ad esempio, fortemente dipendente dal turismo, ha già stabilito che dal 15 di giugno possono tornare i turisti di Australia, Corea del Sud e Cina. Per il ministro della Salute Speranza, invece, giugno è troppo presto e la stagione turistica italiana dovrà contare soprattutto sul turismo continentale. Ad una del resto riaprono le frontiere interne europee. Dalla prossima settimana finiscono i controlli obbligatori per chi entra in Germania. L'Austria riapre all'Italia, ma non alla Polonia, tra gli altri. E Varsavia, che col fine settimana sbloccherà le frontiere, lamenta proprio questa mancanza di reciprocità. E allora è certo che se il coordinamento per la riapertura delle frontiere interne si sta rivelando assai complesso, difficile sarà realizzarlo verso l'esterno. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. 13 e 29 minuti, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ripartiremo a che punto è il contenzioso tra il governo e la società Autostrade, nel momento in cui arrivano nuove notizie dalla Procura di Genova con un nuovo filone, ispezioni addomesticate da parte della SPEA, l'azienda che si occupava dei controlli della manutenzione della rete autostradale sulle gallerie liguri, dove insomma ci sarebbe stata una percentuale di calcestruzzo molto molto inferiore rispetto a quella certificata. A tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento Effetto Giorno. Le notizie di oggi: emergenza Covid, il ministro Speranza, una seconda ondata è possibile, ma per Locatelli sarà meno forte della prima. Crolla la produzione industriale ad aprile, secondo l'Istat, meno 19%. Naufragio al largo della Tunisia, il barcone era diretto in Italia, almeno 34 vittime. Autostrade, nuova tegola sulla concessione. I rapporti SPEA sulle gallerie liguri avrebbero nascosto la carenza di calcestruzzo. Università in 15 anni perse 37.000 matricole, secondo il rapporto al Malaurea, dal 2015 è iniziata una lenta ripresa. 13 e 35 minuti, eccoci qua ben ritrovati, di nuovo in diretta, cari ascoltatori. I vostri messaggi al 349-238-6666, anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Vediamo. Maurizio, non dire che ci sono poche idee. Renzi ne ha proposte una valanga, possono piacere o no, ma ci sono, vanno nella direzione che diceva lei dell'innovazione. Sì, benissimo, è bello vedere come la tenacia dei fan, in questo caso di Renzi. Però ricordiamoci che quando Renzi è stato al governo la sua grande idea è stata il bonus 80 euro, 10 miliardi investiti in una cosa che poi, secondo quasi tutti, non è servita quasi a niente, se non a chi si è messo in tasca gli 80 euro, assolutamente, però non ha rilanciato proprio niente. Volete un piano da 10 miliardi? Eccolo qua, sto sventolando. Articolo di ieri del Sole 24 Ore, la Germania investe 9 miliardi per diventare leader mondiale dell'idrogeno. Questi sono i progetti che contano. Così come rispondo a un altro ascoltatore, il paese non si cambia facendo cattedrali nel deserto. Si riferisce alle proposte di Tonelli, di cui abbiamo parlato nella prima parte, cioè di creare un'agenzia europea a Milano per la ricerca biomedicale avanzata. Dice: è necessario, dice questo ascoltatore, riformare le università, ostaggio dei baroni. Benissimo, riformiamo le università, ma come hai sentito poco fa dalle parole del ministro Manfredi, che è verissimo, il calo delle iscrizioni, il crollo dell'andamento delle università in Italia, prima di tutto dipende dal fatto che non ci sono prospettive di lavoro qualificate. Cosa vado a fare all'università se non ci sono posti di lavoro qualificati in Italia? Ecco, creare quello che lei chiama cattedrali del deserto, cioè agenzie di ricerca, anche l'antenna di cui parlava Tonelli in Sardegna, il progetto Einstein, eccetera, serve proprio a questo, dare uno sbocco occupazionale ai laureati, quindi rimettere in moto tutto il sistema. Non sembra così difficile. È il momento del punto di Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. L'effetto Covid-19 è visto dalle statistiche, segnala la Spoon River dell'economia. La produzione industriale, ci dice oggi l'Istat, segna un calo mensile del 19,1% ad aprile, che diventa un crollo annuo del 42,5%, e non poteva che essere così. Proprio ad aprile l'Istat ci diceva che il lockdown dovuto alla pandemia aveva colpito il 48% delle imprese, pari a 7,1 milioni di addetti, e guarda caso tutto torna, visto che proprio oltre 7 milioni di lavoratori sono adesso in cassa integrazione. Il tema però è capire quale sarà la velocità della ripartenza. I consumi elettrici a maggio sono ripartiti e significa che gli impianti girano. In alcuni distretti gli ordini sono tornati e le imprese trattano addirittura con i sindacati accordi sugli straordinari. Segnali che non autorizzano ancora a immaginare una nuova primavera dell'ottimismo. Molto dipenderà dalla capacità che l'Italia avrà di organizzare un serio piano di investimenti pubblici e privati. I soldi ci sono, lo sappiamo, e sono per lo più europei. Bisogna solo imparare a spenderli. Speriamo che la tragedia della pandemia ci stia almeno insegnando di partire dall'idea di bene comune, che nella patria delle risse non è affatto una banalità. Adesso è con noi Maurizio Caprino, collega del Sole 24 Ore. Ciao Maurizio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Perché, come anticipato nel sommario, ci occupiamo di autostrade. Sarebbero stati falsificati, secondo la Procura e la Guardia di Finanza, i rapporti di ispezione all'interno delle gallerie genovesi. Io leggo, perché la materia è complessa, dove sono stati evidenziati problemi strutturali dovuti ad una presenza di calcestruzzo minima ridotta del 90%. Per questo una decina tra tecnici e dirigenti di SPEA, la società del gruppo Atlantia incaricata fino a un po' di tempo fa dei controlli delle infrastrutture sulla rete autostradale, ecco, questa decina tra tecnici e dirigenti SPEA sono finiti sotto la lente della magistratura. Nelle prossime ore potrebbero essere iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di falso. È l'ennesima, diciamo, chiamiamola così, tegola, l'ennesimo inciampo, l'ennesima questione che sta venendo fuori, filone giudiziario, su questa questione delle ispezioni. Come si innesta nella vicenda più grande delle concessioni, delle inchieste sui mancati controlli, Maurizio, questo ultimo filone sulle gallerie? Diciamo che si innesta coerentemente, nel senso che sembrerebbe un altro caso in cui praticamente c'era la consapevolezza che le condizioni della rete, prima sui viadotti, adesso si vede mezzo sulle gallerie, le condizioni della rete erano tali che si doveva intervenire con manutenzioni ben più pesanti, quelle che sono state messe a bilancio, però appunto si è preferito chiudere un occhio e sperare che tutto reggesse. Poi il ponte Morandi, come abbiamo visto, tragicamente non ha retto, e anche ricordo che c'è stato un crollo in una galleria proprio nel Genovese, sulla A26, la galleria Perté, alla vigilia dello scorso Capodanno. Da qui è nato questo nuovo filone di indagine che però, ripeto, non dà modifiche rispetto a quello che è un modus operandi che abbiamo già visto. Ovviamente la magistratura dovrà accertare tutto dal punto di vista giudiziario, però dal punto di vista della storia, ormai fra gli addetti ai lavori, il meccanismo è assolutamente chiaro. Senti Maurizio, se abbiamo capito bene, questo filone giudiziario nasce da un'attività di accertamento sul stato, diciamo, in questo caso delle gallerie liguri, che è stato ripreso in mano dal Ministero dei Trasporti, cioè sono delle ispezioni, sono stati incrociati dati dati che c'erano della SPEA, che aveva fatto i controlli, i rapporti in precedenza, con le nuove ispezioni fatte dal Ministero, che è l'ente che concede la concessione al concessionario, scusate il gioco di parole. È questo, cioè si sta rimettendo in moto questo aspetto, diciamo, che dovrebbe essere naturale, potrebbe essere questo anche il modello per il futuro, cioè l'ente che dà la concessione al privato, l'ente pubblico, in questo caso il Ministero, fa i controlli e se qualcosa non funziona interviene per tempo, senza arrivare a quello che è successo con il ponte di Genova. Potrebbe essere questo il modello, oppure c'è un altro modello, un ente terzo, un'autorità, come succede per l'energia, i rifiuti, l'acqua, cioè c'è un'altra autorità. Verso quale modello si va per quanto riguarda i trasporti, secondo te? Non è assolutamente chiaro, perché allora intanto queste ispezioni vengono fatte dalla stessa Autostrade, che però ha giubilato la propria cugina SPEA dello stesso gruppo, ha chiamato delle imprese esterne quindi la differenza è venuta fuori tra le ispezioni fatte da SPEA e quelle fatte da queste imprese esterne. Però attenzione, non dobbiamo neanche fidarci troppo di queste ultime, perché il protocollo, diciamo, le ispezioni sono partite subito dopo il crollo della galleria per te, quindi a gennaio, si è andati un po' attentoni perché si è dovuto mettere a punto un nuovo sistema, lo si è dovuto condividere con l'ispettore ministeriale Placido Migliorino e si è arrivati a una conclusione soltanto un paio di settimane fa, quindi in realtà le ispezioni probanti sono soltanto quelle che verranno condotte d'ora in poi, quelle davvero probanti. Quanto al modello in generale, avremmo già scelto, nel senso che il decreto Genova ha istituito l'ANSPISA, questa super agenzia che dovrebbe basarsi su un super archivio delle opere pubbliche e decollare in maniera autonoma dal Ministero delle Infrastrutture, da cui drenerebbe solo del personale. Però ci sono delle resistenze, ci sono intanto dei problemi organizzativi, poi delle resistenze di potere ovviamente in vari ambiti, e il risultato è che l'ANSPISA ha accumulato più di un anno di ritardo sul suo ordine di marcia e sinceramente non so quando potrà scendere in campo, e temo che scenderà anche in campo, quando lo farà, in una versione anche depotenziata. Ci sono già mosse varie manine su questo, e quindi onestamente non posso prevedere quale sarà la vera direzione. Ecco, insomma, Maurizio Caprino, l'ultima cosa in pochi secondi, perché non abbiamo più moltissimo tempo, un aggiornamento sul contenzioso con Autostrade da parte del governo, una decisione chiara non è ancora stata fatta sapere, cosa si sa al momento su cosa è intenzionato a fare il governo? Ma allora, l'unica cosa che sembra chiara è che la decisione si vuole cercare di posticiparla dopo l'inaugurazione del nuovo ponte di Genova che sostituirà il Morandi, quindi scapolare questo passaggio politico molto importante per poi lasciar digerire probabilmente alla base dei 5 Stelle il fatto che non ci sarà la revoca della concessione. Si sta cercando di un nuovo assetto proprietario di controllo di Autostrade, questo lo si sta mettendo a punto. Sarà interessante vedere chi ci metterà i 20 miliardi che sono necessari ecco, per recuperare le carenze di manutenzione di cui abbiamo parlato prima. Ecco, va bene, grazie Maurizio Caprino. Staremo a vedere gli sviluppi sul fronte, appunto, dopo l'inaugurazione del ponte e sul fronte della concessione. Intanto la notizia di cronaca, ve l'abbiamo raccontata, sono queste nuove il filone giudiziario della Procura di Genova che potrebbe portare anche all'iscrizione di nuovi indagati. 13:45, torniamo tra un attimo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.